fine si perderà. Ma io farò per te quello che nessuno fa. Oggi per te spacco in due la realtà. Questo per te, caro amico da vita mia.